a 26.950. Sì. Strano, io l'ho sentito. A te che non ti sento in quella frequenza, invece a lui sì. Beh, non so che dirti. Comunque sono i misteri delle radio questi qua. Cosa vuoi che dica? O magari sai cosa è? Secondo me, qualche filtro. Qualche filtro che non... che fa passare qualcosina e io riesco a sentirlo. Oh già, ma da te... Ah, mi senti sul 20, su quella frequenza, sul 26? No, io no. È strano, non lo so. E ho detto dicendo, ma magari io ho qualche filtro attivo che riesca a sentire quello che non sentono gli altri. È possibile sia così. Dai, come mi senti con questo microfono? Perfetto, Radio 5 super. Cazzo già. No, io ho provato a scendere e non sento niente. Aspetta, però quando fai il passaggio lungo ti sento un'alternata sotto, leggera ma te la sento. Già lo so che c'è un po' di alternata, il microfono, se lo metto sulle gambe non ci fa. È una cosa allucinante, guarda, adesso non lo senti più, vero? Sì, adesso non si è sentito. È una questione di massa, deve essere, cosa ne gioco. Magari se lo metti da un'altra parte non lo si sente. Vedo durare, lo devo appoggiare. Adesso me l'appoggio sul letto e buonanotte, così a me non dicono niente. No, comunque, no, io sentivo, è per quello che sono venuto veloce qua a dirtelo. Mi stavo facendo un giro a scendere piano piano nei canali, perché poco fa stavo sentendo propagazione al canale 1 e al canale 2, che sicuramente erano rumeni autisti. E... anzi, mi stavo facendo un giro e ho sentito a Franco parlare. Può succedere, dai. Dipende anche dagli apparecchi, più sensibili o meno sensibili, non lo so. Il tuo è già un apparecchio come si deve. Io sto usando un Galaxy. Magari anche quello. Perché io ho anche il preamplificatore attivo adesso. Ecco perché. L'amplificatore dell'antenna ha più di tutto i segnali amplificati. Quanto è il segnale da te, Dani? Infatti è per quello che sento molte cose da lontano anche. Quanto è il segnale da te, Dani? Ma il tuo? K. 930. Zona di modulazione la tua, cioè ottava? No, Sant'Orsola Nord. Sant'Orsola, ok. Aspetta un secondo, Devo vedere una cosa. Ma sei salito a 9.40, ma non serve a nulla. Un bel brutta di radio, di voce da Radio 2. No, non si capiva niente di quello che dicevi. Ma a me stai dicendo? Aspetta adesso. Guarda così com'è. 9.30, sempre perfetta, come prima. Ho capito. 9.30. Adesso è scesa a 9.20. Così è normale. 5 watt. Adesso gli diamo un po' di potenza in più. Vedi un po'? 1, 2, 3. Ora buon si vede. Come arrivo io, Dani? Così mi sia a 9.40, però di radio sei sceso, Sei sceso, non te lo do più un 5. Che cos'è? Ha mangiato la radio? Sicuramente già si mangia la radio. Vuol dire che gli stai dando troppo ingresso, capito? Ora. Era solo per fare una prova, già lo so l'ingresso che gli devo dare. Se gli dai più watt del solito ti fa quel lavoro lì, capito? Guarda adesso da lì. Fai un piccolo passaggio. Wow, hola. Sì, 9.40, però radio 5 ti do adesso, no. Faccia è perfetta. Non è potente, però è perfetta. Ciao ragazzi. Aspetta già che provo a fare quel lavoro là. Questa qui c'è. 1, 2, 3, così. Metto quella capsula in quel microfono un secondo, dai. Sarà da farmi la doccia, dai. Gianni, da dove stai modulando? Da Via Baldetta. Non ti ho capito, da? Via Baldetta, Badimanna. Ah, Via Baldetta. No, già sei bello in alto. Alco, guarda che sto vendendo delle antenne per la 27. Sono delle Grand Play da un quarto di lambda. No, Grand Play no. Se fosse ancora l'amato ma ci avrei fatto un piccino. Cazzo, tu sei quei buoni mondezza. L'amato va a assorbire un po' di mondezza. No, l'amato quello l'ho avuta, era bellissima. Dopo 12 anni l'ho tolta ed era ancora funzionante. C'era solo da fare delle modifiche e basta, perché c'erano tutti i radiali, sennò era un'antenna che andava molto bene la matova. Io ho avuto la matova 5 e poi. No, la Grand Prix fa un bel TVI. Confronta la matova, ma non penso. Non penso perché non ne ho mai sentito parlare questa roba così. Ma io sì, l'ho anche avuta, non so se mi spiego, con la vita passata a cuore io avevo la Grand Prix, cioè avevo la M2, la M2 scatole venivo, quanto ti voglio dire, mi piace a Franco, lui si va per campagna. Oh, ah, si è sparito, vediamo se rientra, Franco. Ehi Dani, dimmi. Ah, già ci sei. Ascolta, ma non è che per caso ti serve a te una Grand Prix? Ma guarda, c'ho anche la Ringo da piazzare, c'ho la Bumber anche giù in campagna. Quindi niente? No, cosa me ne faccio? Ma dove sono da... Ancora in cellofonate sono. Tutti vi buscarti una mantova. A procurare una mantova? Procura una mantova nuova. Io tutti quanti i tubi della verticale ce li ho. E i radiali che mi mancano. I radiali si possono anche costruire. Ma è una rottura di scatole ricostruire i radiali. Non ti credermi. Prendi la misura di uno e così lo rifai un forellino piccolo, li metti una vite passante e sei a posto. Però compri quelli di ripieni da bricco, di alluminio ripieno. No, i radiali originali della Mantova hanno la spirale di rame dentro. Vabbè, cosa vuol dire? Perché quelli originali sono vetroresina, ma se tu li metti quelli in alluminio, fa contatto lo stesso, eh? Sì, quello sì. Però vogliono normali 2,75 se non sbaglio. I radiali per la Mantova, per la 27. Però quelle in vetro resina che vendono originali dalla casa, per la Mantova, sono molto più corti di 2,75 e dentro hanno anche le spirali di rame. Ascolta Dani, io il lavoro che ho già fatto, te l'ho detto per sicurezza, io l'ho già fatto quel lavoro, li ho messi sia vuoti sia ripieni, le cornacchie me li rompevano sempre. Praticamente gli ho messo anche delle lenze per tenere perché ogni volta che si mettevano le cornacchie, come spiccavano il volo, davano lo slancio e lo spaccavano. E niente, poi dopo un po' anche quelli me li hanno rotti perché dove c'era il buco passante, dove passava il bullone era più debole e come hanno spiccato il volo di lato invece che spiccarlo di lungo, hanno spiccato di lato, quindi non c'era tirante e me l'hanno rotto. Vabbè, quello lì succede perché ci sono i radiali. E i bisogni sono curiosi. Tu pensa sull'antenna che ho io, che è una verticale, la Game Master, autocostruita. Ci sono gli uccellini che si calano sopra la punta proprio. Tu pensa all'equilibrio che vanno. Io non sono la Game Master. Io la Game Master, si mettono in punta rosso. Anche la cornacchia una volta si è messa in punta la bigiata, se no già me la bronca. Se è messa la bigiata, sai come la piegate, eppure non si è rotta. No, a me già non me la rompe, vai tranquillo, che già è bella rinforzata anche in punta. Ma quella lì è presa da Luca? No, questa che c'ho io me la sono fatta io, me ne sono ricostruito anche un'altra per il camper, per quando esco d'estate, almeno se vado in queste zone qua sto in collegamento anche qualche giorno con voi, e non ho da fare altro. Cioè tu la vorresti mettere quando sei fermo sul posto dove devi andare? Sì. Ma camminando non li usi? No, camminando no. Già ce l'ho l'antenna veicolare col magnete grande. Però no, in questo piace piazzarlo. Ma è nuovo il camper? Eia. E allora, perché Eugenio l'ha comprato il camper e c'era già il baracchino, antenna, tutto già piazzato, tutto già dentro, e faceva parte degli optional. Ma in questa qua non ho voluto piazzare il baracchino, però ho piazzato lo stereo a due din, quello con lo, col display gigante. Ho capito, vabbè, non puoi mettere uno e l'altro. Cioè voi già ci sta, trovi uno spazio per metterlo. Il problema del camper è sempre l'antenna che non fa massa. Invece quello di Eugenio sicuramente è sotto il tetto, hanno messo qualche piano di massa perché va bene come antenna. C'è l'antennino piccolo, va bene. Ah, questa che c'ho io l'antenna, come piano di massa c'ha il magnete. Come magnete 150 di magnete ha. Ed è bello grande. Sì, ma la base magnetica deve avere un piano riflettente, capito? Sì, quello sì. No, invece nell'altro camper mi disturbava quando camminavo, che l'antenna fletteva verso il camper perché la cellula era in alluminio. Invece questa qua è in vetroresina. E quello è, che non sai come fare la massa. Quando camminavo si avvicinava un bel alla scocca e rompeva le scatole. E no, non andava come doveva andare. Allora, poi ho preso e quando rimanevo fermo già qualche parola già l'ho data, soprattutto qua a Fiume Santo. Però camminando ascoltavo e basta, perché non c'era mai nessuno. Ma a Fiume Santo si può ancora andare con il camper? Sì, basta che non sai dalla parte della battigia. Ah, ecco. Ho capito, dai. Vabbè. Che cosa c'hai di camper? Un Challenger. Ma cosa c'ha? Ma saldato? Ma saldato, dietro c'è il garage gigante. E come motorizzazione cosa c'ha? Ford Transit. Ah, ho capito. E già vanno bene le motori. Fra, mi prendi. Franco non riprende e mi sa che io adesso vado e faccio una bella doccia, chi ci vuole. Dai, vi lascio, quando entra Franco salutalo, che deve provare questo microfono, non so cosa sta combinando perché non so quanto ci metta, io devo andare, dai. Mi voglio fare questa doccia che c'ho caldo. Ok, dai, io non è che ci sto molto adesso in radio. Dai, vi faccio altri 5 minuti e poi chiudo anche io. Ciao, dai, già ci sentiamo un altro momento. Ciao. Ciao, Dani. Per il resto, la patente, come sta andando? Mi sa che gli hanno rinviati gli esami. A ottobre. Ottobre, sì. A ottobre tutto quanto hanno rinviato. Perché stavano facendo una declassazione da 35 a 15 studenti. E molti non rientriamo perché siamo un bel po' adesso. Ho capito, ma non lo stanno facendo via online adesso. Esatto, non sbaglio. Io ho sentito dire così, boh. Sì, tutto quanto online. Però stavano dicendo, perché hanno fatto una proroga anche loro, che rimandano tutto quanto a ottobre. Perché adesso a maggio non so che cosa c'è e bloccano tutto quanto e aspettano tutto quanto a ottobre. Ah, ok, dai. Vabbè, dai, che più tempo per studiare, dai. Magari ti danno le passate in più. A voglia. No, anche perché c'è una parte dei filtri che è un casino. Tu pensa, abbiamo fatto 5 lezioni solamente per i filtri. Ed è un casino nero quella lì, quella parte lì. Vabbè, capo, magari non ci capita nemmeno, dai. E se capitano, quello lì sono un macello, quello è. È come per la patente, no? Se ti capita la cartella facile la fai 5 minuti, se ti capita quella difficile ti incasini e sbagli. Quello sì. Ma comunque io aspetto a novembre adesso. E vediamo cosa ne esce fuori. A ottobre, non a novembre. Tu facci Vicente. Parti Vicente e poi vedrai che già va bene. Interessante chiedere una rinfrescata prima di andare. Mi rifaccio tutte quante le lezioni che abbiamo fatto a ripassare un pochino. Che sono in poche parole 17, quindi 17 ore, 17 più tutte quante le mezz'ore in più che ci sono, e fai una trentina di ore di lezione. E già basta, ma cosa stanno facendo in sede la lezione? La sera dalle 9 fino alle 10 oppure a volte anche alle 11. Ah, proprio quindi in orario che già puoi andare, dai, finito di lavorare. Sarei cribato al lavoro, ma... Ehi, roba di volte mi sono addormentato durante la lezione, ascoltando mi gioco abbioccato. succede. Specialmente quando fai lavori pesanti e corso già succede, dai. Vabbè, dai, ti lascio. Salutami Franco, se lo senti. Io sto andando a fare una bella doccetta, dai, ci sentiamo. Ok, là. Comunque se senti qualcosa per le antenne fammi sapere già. Così, tanto sono nuove, ancora in cellophane. Sono ancora il cellophane chiuse. Se senti qualcuno fammi sapere. Oggi la voce. E a quanto mi stai dando? 50 euro l'uno al ristorante. Ne ho due di quelle. Poi c'ho anche antenne per le U. Sempre Grand Plain. Ma un pochino di roba già ce l'ho. Vabbè, se sento non c'è problema.